Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note del Loro del Reno iniziamo l'incontro di oggi. Buona domenica e buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Loro del Reno, siamo qui con Luigi Bordoni, presidente di Centro Marca, l'associazione che riunisce le industrie di marca. Perché Loro del Reno? Luigi Bordoni. Loro del Reno, che ho recentemente riascoltato alla Scala, l'ho sentito diverse volte, però l'ho riascoltato proprio nel momento un po' drammatico della crisi recente. Ho trovato una straordinaria analogia con quello che stava succedendo. Cioè, Loro del Reno è un po' questa rappresentazione di un mondo che, per inseguire appunto l'oro, la ricchezza che viene estorta in mille modi, con mille sotterfugi, eccetera, dagli abitanti del Reno, che sono poi queste ondine portate dai giganti al Valhalla, così tutta questa storia su cui naturalmente adesso non voglio entrare, però è comunque è un po' paradigmatica rispetto a quello che sta succedendo in una società dove appunto l'oro, la ricchezza, il fare profitti a tutti i costi e senza regole, arrivando poi pian piano a delle situazioni drammatiche, certo. Arrivando poi al disastro alla fine, cioè alla fine poi sarà la caduta degli dèi, ecco, mi sembrava molto rappresentativo di quello che stava succedendo. Ecco, la musica di Wagner, così coinvolgente, così potente, affascinante, è certamente una raffigurazione di un mondo che negli ultimi anni, negli ultimi mesi si è trovato di fronte proprio a una crisi provocata, molti lo dicono un po' dalla cupidigia, dall'avarizia, dal volersi arricchire facendo i soldi con i soldi, quindi l'oro che ha spinto ancora una volta a una crisi grave, una crisi peraltro da cui stiamo piano piano uscendo. Parrebbe di sì, ne stiamo uscendo però un po' ammaccati. Ma di questo magari parleremo dopo. Io vorrei tornare un po' alla musica, al teatro. Lei è il presidente delle industrie di marca, grande appassionato però di teatro e di musica. Che cosa preferisce tra i due, tra queste? Ah, per me non c'è una distinzione tra le due cose. Nel senso che il teatro è un po' il luogo, no? Vari tipi di teatro dove a un certo punto la musica la si va ad ascoltare nella maniera più diretta, più emozionante, soprattutto quando ci sono grandi direttori, eccetera. Sono appassionato di teatro perché mi pare che sia il modo più impattante, quindi forse non sono così, non ho dei gusti così difficili, raffinati. Il teatro è molto immediato, il teatro di per sé è una performing art veramente molto popolare, insomma. Quindi, da piccolo voleva fare l'attore. E come mai poi ha scelto invece? Da piccolo volevo fare l'attore, ma le dirò di più. Forse da piccolissimo vedevo gli attori e quindi ero attratto da questo. È diventato un po' più grande, soprattutto quando ho cominciato ad andare a teatro e a vedere la televisione, io avrei voluto fare il regista. Difatti io mi piacerebbe, se dovessi dire, ecco, la prossima volta cercherò di fare il regista. Beh, però fare il manager, guidare una grande organizzazione è un po' fare il regista, mettere insieme voci diverse, cercare di avere una linea comune, cercare delle strategie, è in fondo come operare su un grande palcoscenico. Guardi, dirigere un'associazione, come è successo a me praticamente per 30 anni, dirigere un'associazione è proprio fare un lavoro di regia, a volte di regie vere e proprie, perché ci sono tutti questi eventi, riunioni, incontri dove gli aspetti così organizzativi, lo dico tra virgolette, di messa in scena, insomma, o di creazione di determinati ambienti, assume un ruolo fondamentale. Quando poi hanno ritenuto di farmi fare anche il presidente, allora mi sono reso conto che sarei dovuto andare in una direzione abbastanza impegnativa. Avrei dovuto svolgere due ruoli, quello del regista e anche quello dell'attore, purtroppo anche il protagonista, quindi molto faticoso. Ecco, però il pubblico comunque sembra gradire. Ma vorrei appunto stare un attimo ancora sul teatro. Come giudica l'andamento, l'interesse appunto del pubblico verso il teatro? C'è una ripresa un po' della partecipazione anche non solo ai grandi spettacoli, ma anche al teatro, direi, quotidiano? C'è una ripresa sicuramente, e penso che potrebbe essere ancora più vasta, ancora più sostenuta se ci fossero i mezzi per, ed è un peccato che non ci siano, per dare maggior possibilità al pubblico di accedere, di conoscere questa forma di manifestazione artistica. Ma il teatro ha un fascino che ovviamente sono anche appassionato di cinema, ma il contatto diretto con una situazione che si crea in quel momento e che è esposto a un rischio continuo. Quando noi andiamo a vedere un film sappiamo che sarà bello, sarà brutto, ma sicuramente l'attore non incespica. Quando andiamo a teatro può succedere di tutto. Uno degli ultimi spettacoli che ho visto al Piccolo di Milano, la protagonista è svenuta in scena dopo un quarto d'ora. Beh, ma fa parte un po'... E questo crea anche, questo per dire che anche queste cose creano una certa tensione, no? Tra il palcoscenico e la platea. E non tutte le serate a teatro sono uguali. Ci sono delle questo chi lavora al teatro lo sa, lo dice, a volte non si crea quella corrispondenza tra platea e palcoscenico che poi porta al grande successo, insomma. Un consiglio guardando in avanti nei prossimi mesi, che cosa ha già messo nella sua agenda da non perdere tra gli spettacoli io teatrali? Io ho un'agenda di spettacoli da non perdere, poi me ne metto in agenda 10 e poi dopo riesco a vederne 3, insomma ne vedo sempre abbastanza, però purtroppo. Ma questo capita a tutti, capita, no? Tutti, qualsiasi, qualunque sia il nostro hobby, se il nostro hobby è andare a sciare, questo era un altro mio grande hobby fino a quando non mi sono fracassato, e mi programmavo un certo numero di giornate, mi programmavo e poi dopo naturalmente dovevo tagliare come tutti tagliamo. Ecco, ma un consiglio arbitrario proprio, non, senza che sia un giudizio di qualità, di qualcosa che c'è da vedere sulle platee, appunto sui palchi. Allora, in questo guardi, momento. Io vorrei dare un consiglio di carattere un po' generale, insomma, nel senso di dire, consigliere al pubblico di andare. Ecco, per esempio, trovo che un pubblico più vasto dovrebbe vedere le nuove messe in scena, modernissime, direi d'avanguardia, delle opere liriche. Ci sono in giro per l'Europa, ma vengono anche in Italia, dei registi e quindi delle produzioni che sono modernissime, sono molto coinvolgenti. Io ho visto per esempio a Firenze, adesso c'era Wagner, proprio ho visto la Valchiria di Wagner messa in scena dalla Fura del Sbaus, che sono questi ex attori di strada catalani che adesso sono arrivati addirittura a mettere in scena le più grandi opere liriche nei più grandi teatri del mondo. Il teatro era pieno di giovani. E alla fine, mi ricordo del primo tempo, ma poi anche alla fine, la platea è saltata per aria con questi giovani entusiasti, perché hanno visto qualcosa che non conoscevano, interpretato in maniera modernissima, trascinante, con dei video bellissimi, con un'impostazione veramente fuori da tutti gli schemi. Quindi ci può essere consiglio di andare a vedere le opere messe in scena dei registi più nuovi, che sono appunto La Fura, che i giovani conoscono, La Fura che fa anche altri spettacoli. Milano sono abbastanza affollati i loro spettacoli, ma poi Calisto Bieto, un altro catalano molto trasgressivo, e poi tanti altri, Damiano Michieletto in Italia, per esempio. Scoprono un mondo nuovo, però c'è una cosa fondamentale. Non andate a vedere degli spettacoli di opera lirica senza esservi un poco preparati. Ascoltatevelo una volta col libretto a casa, allora il godimento sarà elevatissimo. Certo, prepararsi, sapere quello che si va a vedere. Ecco, io vorrei farle una domanda su Milano. Lei ha accennato alle iniziative di Milano. Come giudica questa città, quella nostra città che ha tanti problemi, guarda verso l'Expo del 2015 con ancora più problemi. È una città che comunque si muove. Guardi, è una città che si muove, però io devo dire che viaggiando molto, quindi potendo fare il confronto con altre città, ma facendo anche il confronto tra Milano come adesso e come è stato in passato, forse vabbè l'ottica, così può dire, quando si guarda al passato si rimpiange sempre qualcosa, se non altro perché si era giovani. Certo. Però mi pare che ci siano delle cose che dovrebbero essere fatte e si potrebbero fare senza grandissimi sforzi e non vengono fatte. Cioè, questo mi fa molto rabbia. Beh, insomma, io quando vado in Piazza del Duomo vorrei vedere il massimo, cioè dico Piazza Duomo, ma vorrei dire Piazza Scala è già un po' meglio, la galleria, cioè i posti simbolo di una città. Ma io direi cominciare da lì, cominciare dai posti di riferimento, ma chiunque di noi, cioè a un certo punto nella sua casa, nella nostra persona, tutto quello che crea il primo impatto con il pubblico deve essere assolutamente perfetto. Quindi le rosticcerie in Piazza del Duomo mi fanno molto arrabbiare, la galleria in preda a tutti gli avventori mi fa molto arrabbiare, i giardini pieni di sterpaglie, certo. O il piazzale della stazione di Milano, ecco, queste cose qui sono delle cose assolutamente fondamentali, rischiano di far perdere l'identità alla città. L'identità è una cosa molto molto importante. Incontri. Buongiorno e bentornati al nostro incontro di oggi, incontro con Luigi Bordoni, presidente di Centromarca, sulle note dell'Oro del Reno di Wagner. Abbiamo trascorso la prima parte parlando di musica, parlando di teatro, parlando di Milano, parlando un po' di quello che ci circonda, di questa società un po' frenetica in questo senso e anche di questa corsa all'oro che ha caratterizzato gli anni scorsi con la crisi finanziaria che in poi ha colpito pesantemente tutte le economie, compresa quella italiana. Una crisi di cui si diceva stiamo un po' uscendo. Qual è il suo giudizio, Luigi Bordoni, sull'attuale fase economica, vista appunto dalla torta di comando delle industrie di marca, che sono un po' uno dei punti di forza dell'industria italiana? Sì, direi che siamo passati dalla turbolenza, delle grandi preoccupazioni ad una situazione più tranquilla, ma certamente non esaltante. Insomma, la situazione dei beni di consumo, perché è di questo che... Certo. Che si tratta è piuttosto pesante, e cioè i consumi non decollano e quindi evidentemente per le imprese che operano in questo campo. Ecco, per rendere un'idea, facciamo pure qualche nome delle imprese che partecipano a Centromarca, per dire che appunto sono imprese che lavorano nel largo consumo. Bene, le nostre sono imprese appunto del largo consumo, diciamo tutti i beni producono tutti quei prodotti che noi andiamo a comprare al supermercato, quindi i nomi alimentari, Nestlé, Barilla, Ferrero, Coca-Cola, tutte le acque minerali più importanti, i vini più importanti, tutto quello che serve per la nostra alimentazione e per la cura della casa e della persona, quindi Procter & Gamble, L'Oreal, Bayer, questi sono i nostri associati. Va detto che rispetto a questo mare piatto che è il mondo dei beni di consumo, l'industria di marca sta andando mediamente meglio. Questo significa una crescita contenuta, ma una crescita. E sto parlando di un dato medio. Se lei mi chiedesse come mai riesce l'industria di marca a fare un po' meglio del comparto generale di beni di consumo... Me lo chiedo volentieri. Me lo chiede volentieri, quindi mi scuso magari di aver anticipato una domanda che viene abbastanza normale fare. E questo è dovuto al fatto che le nostre aziende, nonostante le difficoltà e i rischi del momento, continuano a investire nelle leve fondamentali della crescita, che continuano a essere due e da sempre sono fondamentalmente queste, sono la ricerca, l'innovazione e la comunicazione. Noi abbiamo peraltro all'interno della nostra compagine, insomma, delle nostre imprese, delle situazioni abbastanza variegate, a volte anche polarizzate. Abbiamo delle aziende che vanno straordinariamente bene con crescite a due cifre e aziende che purtroppo non hanno questo stesso. Beh, com'è giusto all'interno di un mercato, ci sono delle diversificazioni, ci sono anche dei momenti in cui certi settori possono andare meglio di altri, ci sono magari delle campagne pubblicitarie indovinate rispetto ad altre che hanno meno impatto, quindi sì. È un po' la logica del mercato. Sì, però questo che lei dice è successo sempre, quello che adesso si evidenzia è un'accentuazione, no, di questa diversità. Certo. Questo significa che le cose vanno più o meno bene a seconda della strategia che si adotta, come giustamente dice lei. Insomma, però oggi in maniera più marcata il successo o l'insuccesso nascono da strategie indovinate, azzeccate o non azzeccate. Ecco, questo, mi sembra però di certamente vorrei, aggiungo soltanto questo, non c'è dubbio che là dove c'è investimento in ricerca, innovazione e comunicazione, il successo va prevalentemente in quella direzione. Quindi devono andare di pari passo la comunicazione e la qualità, cioè se c'è comunicazione ma non c'è qualità, il prodotto non ha successo. Se c'è ci sono invece questi due elementi, un prodotto di qualità, di innovazione che risponde ai bisogni, che risponde appunto alle esigenze magari anche un po' sofisticate del pubblico, unita a una comunicazione efficace, allora il successo può essere, se non garantito, però certamente più facile. Sì, direi in questo modo, lei ha assolutamente ragione, ma preciserei un po' così. La comunicazione che non ha dei contenuti sostanziali e sostanziosi rischia di essere un esercizio vuoto, ma questo le aziende lo sanno, l'industria di marca lo sa, e in linea di massima mi pare che questo, che tutto sommato questo non avvenga. Ecco, il problema è proprio quello di generare non solo qualità ma anche servizio. Oggi per esempio è estremamente importante il servizio, il brodo pronto, ma lo diceva un distributore, l'insalata già lavata, ma questo è un esempio che viene fatto spesso per dire che la gente non è che vuole spendere poco, la gente è disposta a pagare purché porti a casa qualcosa. Se porta a casa la possibilità di evitare la fatica di lavare l'insalata, è ben felice di farlo, a pagare e paga molto di più che non l'insalata da lavare. E quindi, visto dal punto di vista industriale, il margine produttivo può essere anche maggiore di fronte a un prodotto appunto che ha un servizio aggiuntivo. Noi in questo senso dobbiamo evitare il grosso rischio della banalizzazione dei prodotti, quindi una delle grosse azioni, pressioni che noi facciamo nei confronti dei nostri amici partner della distribuzione è proprio quello di lavorare insieme per creare insieme valore, perché sennò corriamo il rischio che noi facciamo questi investimenti in comunicazione e in innovazione e poi tutto questo viene banalizzato in una lotta sui prezzi, una guerra dei prezzi, e sembra quasi che la gente quando entra in un supermercato vada a comprare dei prezzi. No, la gente non compra mai un prezzo, la gente compra, vuol trovare naturalmente il prezzo più conveniente, ma per il prodotto che gli conviene, per il prodotto che vuole. Quando lei diceva gli amici della distribuzione, ho visto che c'erano le virgolette su amici, perché ogni tanto sono anche dei nemici, cioè sono un po' in conflitto. Loro cercano di attirare appunto un pubblico, qualche volta facendo qualche operazione che voi non apprezzate molto. Allora, intanto diciamo nemici mai, perché con i nemici non si fanno buoni affari, quindi questa dimensione dobbiamo escluderla. Diciamo che dialettici, ecco, diciamo che è una partnership dialettica su cui questo comporta che abbiamo sempre da discutere qualcosa, ad esempio quello che lei stava dicendo. Sicuramente se noi investiamo, vede, il prezzo è una componente del valore, non è che non c'entri nulla, ma è una componente, ma non si può focalizzare tutto su quello, perché ripeto, quando noi compriamo facciamo un rapporto tra quello che il prodotto che andiamo a comprare o che vogliamo scegliere e il prezzo, e da questo confronto, da questo baratto viene fuori da questo. Ma per questo che le operazioni, chiamiamole così, della grande distribuzione sul sottocosto, per esempio, hanno più effetto se sono fatte su prodotti di marca, perché un sottocosto su un prodotto senza marca non ha un impatto sul pubblico. Questo è un grosso problema. Ci sono tante cose che possono avere un impatto, questo in tutti i campi della nostra esistenza, però ci sono delle cose che sconfinano nella scorrettezza. Se un'impresa investe notevolmente per dare un nuovo, miglior prodotto, un miglior servizio, un prodotto più rispettoso, per esempio, delle compatibilità ambientali, via dicendo, e poi, proprio perché è una novità, viene svenduto, ecco, questa non è un'operazione corretta. Quindi, e poi ricordiamoci che il sottocosto è una deformazione dei rapporti di mercato e di concorrenza. Attraverso il sottocosto si crea il dumping e i distributori italiani sono spesso in posizione dominante in mercati rilevanti. Quindi attenzione, perché il sottocosto anche per legge può essere fatto entro certi limiti e non oltre. Certo, ecco, però guardando in prospettiva, questi sono indubbiamente problemi che esistono, guardando in prospettiva e più in generale, come vede i prossimi mesi per l'industria italiana, per l'industria soprattutto dei beni di largo consumo? Continuerà una situazione non semplice, non abbiamo di fronte un periodo in discesa, questo vuol dire non prevediamo che i consumi possano riprendere rapidamente. Noi abbiamo due problemi da risolvere. Bisogna che questo paese avvii delle riforme e noi mettiamo in testa tutte quante le liberalizzazioni. Le liberalizzazioni, secondo il più recente studio che abbiamo disponibile, che è dell'Università Bocconi, significherebbero risparmi per le famiglie di 3.200 euro anno famiglia. Questo significa, immaginiamo che in ogni famiglia a Natale piuttosto che a Pasqua arrivi questa mensilità o quasi doppia mensilità forse, no? In più rispetto, e questo sarebbe sicuramente una grande boccata d'ossigeno per le persone, per le famiglie e per il sistema. C'è molta difficoltà al cambiamento nella nostra società, oltre che nella politica. Esatto, c'è il famoso detto che i politici sanno quello che si deve fare per risolvere i problemi economici, quello che non sanno è come fare a essere rieletti dopo che l'hanno fatto. Per le liberazioni vale esattamente questo. Però vede, noi stiamo proponendo ai distributori e anche alle organizzazioni dei consumatori di far sapere questo alla gente, quello che risparmierebbero, i vantaggi che avrebbero delle liberalizzazioni. Il guaio è che su questo i politici non hanno mai fatto nulla, non solo non hanno fatto le liberalizzazioni, ma non sono neanche arrivati a spiegare al paese perché le liberalizzazioni portano dei vantaggi. Se lei fa una ricerca, lei trova livello di conoscenza zero su questa cosa qua. Anche sul fronte politico, purtroppo. Forse anche sul fronte politico. Ecco, per concludere, allora, Luigi Bordoni, presidente di Centrobarca, siamo un po' in anticipo, ma che auguri di Natale vuol fare? Non solo alle sue industrie, ma ai consumatori. Ma siamo già a Natale, io sto ancora facendo. Mancano ancora un paio di mesi, però la campagna natalizia praticamente sta cominciando. Ma io direi, quando si parla di Natale si parla sempre di serenità, si parla così di evasione rispetto ai problemi di tutti i giorni. Allora io direi che ai nostri ascoltatori io augurerei intanto di avere la possibilità di staccarsi un attimo rispetto ai problemi che ci angosciano tutti i giorni, e poi gli auguro di andarsi a sentire la musica di Wagner in qualche teatro e andate ad ascoltarla là dove si produce, con informatevi e cercate un regista di quelli giovani, moderni, attuali. Vi assicuro che andrete a casa con qualcosa in più, con un regalo in più del tutto insolito. Beh, sarà un regalo che va a arricchire il vostro spirito. Certamente, anche la qualità della vita è qualcosa di importante in questa prospettiva. Io ringrazio Luigi Grazie Bordoni per averci accompagnato in questo primo Grazie. Pomeriggio della domenica. Luigi Bordoni, presidente di Centromarca. Ringrazio Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.